Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Un Ig Nobel alla ricerca italiana. Ovviamente strano, mette insieme quadri famosi, raggi laser che punzecchiano le mani. La sfida alla moda per eliminare il più possibile sostanze tossiche dai tessuti. Ebbene sì, ci sono anche loro, i gibboni canterini. Buoni, che intervenite più avanti. E poi chiudiamo con una vostra domanda, la domanda di Walter. Perché non possiamo farci il soletico da soli? Va bene, iniziamo. Io credo ormai che dovreste saperlo cosa sono gli Ig Nobel. Sono questo strano premio bizzarro che danno un alla... Un po' una parodia dei Nobel, esatto. Dove però si tratta di ricerche vere. Noi ogni anno, quando arriva il momento del premio, che è appunto di queste settimane, ne parliamo sul nostro blog. Trovate una trasmissione completamente dedicata all'Ig Nobel. Ma quest'anno, anche quest'anno, c'è stato un premio importante dato a della ricerca italiana. Allora, ad essere proprio sinceri, sono stati due i premi assegnati all'Italia, uno un po' discusso all'economia, all'Istat, ma qui non entriamo in nessun tipo di polemica, e uno invece effettivamente legato a una ricerca italiana sull'arte, quindi che ha vinto l'Ig Nobel per l'arte, ed è stato assegnato a Marina De Tommaso, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera. Lei è professoressa associata di neurologia all'Università di Bari e le è stato assegnato questo premio, leggo testualmente la motivazione. Allora, è stato assegnato per lo studio sulla percezione del dolore da parte di una persona che sta osservando un dipinto, bello o brutto, mentre viene colpita alla mano da un potente raggio laser. Ecco, così, detta così, sembra un po' bizzarra. Dottoressa, se ce la racconta, se ce la spiega. L'esperimento è stato effettuato con una tecnica che si usa rutinariamente per lo studio del dolore, e diciamo consiste nella stimolazione della cute con un laser ad anidride carbonica, che non è doloroso più di una puntura di spillo, e questo ovviamente consente di registrare a livello dello scalpo una risposta che è appunto correlata a quanto il soggetto sta attento al dolore, quindi in parte anche a quanto dolore percepisce. Voi capite in che modo il cervello, le aree del cervello si attivano quando uno sente un dolore, ecco. Esatto. E poi avete, diciamo, aggiunto un elemento che è quello dell'osservare un dipinto. Sì, noi normalmente, diciamo, nella sperimentazione utilizziamo dei sistemi di distrazione per valutare quali siano più efficaci nel ridurre la risposta cerebrale al dolore. E quindi in questo senso abbiamo sottoposto i soggetti contemporaneamente alla stimolazione dolorosa alla visione di quadri riprodotti su un monitor. Questo determina sempre un effetto distraente, e l'effetto distraente maggiore quindi era relativo alle immagini che i soggetti avevano valutato come esteticamente piacevoli, diciamo, belle. Facciamo un esempio concreto. Gli avete per esempio proiettato che cosa? Un'immagine? Erano 300 immagini relative a quadri famosi. Mm-hmm. Quindi quadri Leonardo, Raffaello, certo, classici. Erano i quadri più famosi che esistono, e abbiamo soltanto eliminato i soggetti sacri, perché magari il soggetto sacro poteva avere un altro significato. Sì. E per il resto abbiamo preso dalla Gioconda alla Venere di Botticelli, i girasoli di Van Gogh, all'Urlo di Munch, cioè... Perfetto, ma cosa avete visto? Che per esempio con la Gioconda la risposta al dolore è più alta, più bassa, è più ignorato il dolore? Sì, c'era una differenza relativa a quanto il soggetto aveva valutato bello un certo quadro. Quindi se la Gioconda gli era molto piaciuta e aveva dato un giudizio 10 in termini di bellezza, la risposta corticale al dolore si riduceva, quindi c'era maggiore attenzione verso il quadro e minore attenzione verso il dolore. E quindi chiaramente la risposta corticale si riduceva. Nello stesso tempo anche l'entità del dolore che il soggetto percepiva in relazione al laser si riduceva. Ma perché voi avete anche chiesto un giudizio soggettivo sul valore del quadro? Sulla bellezza. Certo, quello precedeva la sperimentazione, nel senso che i soggetti venivano sempre interrogati su quanto ti piacesse questo quadro e quanto era bello, da 0, ecco, che non è per niente bello, a 10, che è bellissimo. Quindi diciamo un quadro brutto faceva percepire il dolore in maniera, diciamo, veritiera, reale. Più sensibile. In maniera, ecco. Sì, certo. Cioè, aveva poco effetto distraente dal, ecco, dolore. Ecco, qui c'è stata poi un'errata interpretazione da parte di molti non addetti ai lavori, i quali, diciamo, hanno un po' strumentalizzato il lavoro dicendo allora il quadro brutto fa male, no? No, vabbè, no, non esageriamo. Certo, certo. Sarebbe... non distrae. No, questo è per ridere. Ecco, ma tutto questo dal punto di vista, come dire, dell'importanza scientifica, significa che in qualche modo le vie del dolore sono associate invece alla percezione del senso, quindi della vista, di una cosa che ci piace. O comunque di un contesto. C'è in cui una siamo. Relazione, quindi. Certo, praticamente sono tecniche di analgesia visiva che vengono utilizzate, per esempio, in realtà virtuale. Cioè ci sono tutta una serie di tecniche per il trattamento del dolore in realtà virtuale, e la realtà virtuale è prevalentemente visiva, poi chiaramente la prosecuzione della ricerca è stata nel senso della realtà virtuale e adesso, diciamo, stiamo lavorando anche con una stimolazione plurisensoriale che quindi alla vista unisce anche l'udito, sapete, per esempio gli effetti della musicoterapia. In questo senso possiamo pensare a un'arte terapia, quindi un'arte visiva terapia, così come si sa che la musica viene è positiva per il trattamento di una serie di condizioni, dolore incluso, probabilmente anche la visione piacevole al pari dell'audizione piacevole può avere degli effetti. Un suo effetto. Ci vuole raccontare qualcosa sulle applicazioni di queste tecniche cliniche? Sì, diciamo, esiste tutta una serie di possibilità che usano la realtà virtuale come trattamento anche del dolore, e poi l'altra applicazione che noi stiamo tentando è quella proprio della modifica degli ambienti anche medici, ospedalieri, ma anche delle case, in modo tale che siano più compatibili col benessere cerebrale, quindi incluso anche l'eventuale possibilità, diciamo, di distrazione da sensazioni negative come quella del dolore. Quindi il fatto di rendere questi ambienti un po' più gradevoli, un po' più piacevoli, in qualche modo, certo, non fanno passare il dolore, ma distolgono in qualche modo. Distolgono, perlomeno danno una condizione di maggiore rilassamento, attirano l'attenzione verso fattori positivi e la distraggono quindi da fattori negativi. Quindi adesso stiamo giocando in realtà virtuale sui cambiamenti con un progetto finanziato dalla Regione Puglia. Stiamo giocando sui colori in realtà virtuale per capire appunto qual è la reazione dei soggetti cognitiva ed emozionale ai cambiamenti di colore dell'ambiente e anche sul dolore, ovviamente. Useremo anche questo parametro che per noi è un motivo, diciamo, di misurazione del grado di impatto positivo di un qualsiasi contesto, colori che possano essere più rilassanti. Grazie De Tommaso. Lei si narra che durante la cerimonia di premiazione abbia dichiarato che i quadri di Botticelli sono degli efficaci antidolorifici per il mal di denti, ma ce lo conferma? Ma senta, lì il contesto è fatto così, cioè lì c'erano i premi Nobel che dovevano in 7 parole umoristicamente raccontare le loro ricerche, quindi diciamo che volendola mettere su un aspetto umoristico è stata allo scherzo, una cosa del genere. Va bene, grazie davvero, buona ricerca. Abbiamo capito che sono ricerche, insomma, che all'inizio fanno ridere ma poi sono molto utili e servono. Grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parlo di Detox, The Fashion Duel, la sfida per la moda lanciata da Greenpeace. Come detassazione vuol dire che si tolgono le tasse, così Detox vuol dire che si tolgono sostanze tossiche. È stato presentato a Milano questa settimana. Sentiamo Chiara Campione, responsabile per Greenpeace di questo progetto. Noi abbiamo lanciato questo progetto che si chiama The Fashion Duel, che è cominciato in realtà 2 anni fa, è stato lanciato 2 anni fa alla settimana della moda di febbraio, sotto forma di una sfida che lanciavamo al mondo dell'alta moda, chiedendogli di essere trasparenti non soltanto con Greenpeace ma con i consumatori, con i propri clienti in generale, rispetto all'utilizzo delle sostanze chimiche pericolose nelle proprie filiere. Da allora quello che è successo è che, se è vero che per ragioni che sono di diversa natura non ci sono stati da parte delle grandi aziende del lusso ancora dei commitment a detox in maniera pubblica, no? E quindi alcune aziende come Gucci, come Prada, come Dolce & Gabbana ancora non, diciamo, hanno qualche tipo di resistenza a prendere una decisione di questo tipo, dall'altro chiaramente queste aziende allo stesso tempo cominciano a cercare di capire come raggiungere l'obiettivo. Lo fanno purtroppo, secondo noi, con un livello di ambizione un po' troppo basso, ma questo lavoro è stato invece premiato da, secondo me, una sorta di piccolo movimento che si è creato all'interno dell'industria tessile e quindi anche, diciamo, nelle fila dei fornitori di queste aziende del lusso, che hanno cominciato a contattarci per cercare di capire come fare, diciamo, sul piano industriale, come prendere questo tipo di impegno e che cosa comportasse. E quindi il nostro non posso negare che il nostro primo problema è stato: sì, adesso cominciamo a parlare con l'industria tessile, facciamo magari mettiamo insieme un certo numero di aziende, ma poi come facciamo a verificare che questo impegno venga rispettato? E quindi abbiamo stabilito, abbiamo sperimentato questa cosa che è bruttissima da dire, specialmente visto che siamo un'organizzazione indipendente, cioè abbiamo stabilito una sorta di prezzo di ingresso all'interno di questo detox commitment, che naturalmente non era un valore monetario che le aziende dovevano versare, ma abbiamo alzato ancora di più il livello d'ambizione del detox commitment, chiedendo a queste aziende di pubblicare i loro impegni e quindi di renderlo noto solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse già stato avviato all'interno dell'azienda un processo tale da eliminare 8 delle 11 categorie di sostanze chimiche pericolose, che sono quelle a livello internazionale vengono considerate come le più pericolose. Le 6 aziende che sono già dentro il progetto sono la Berbrand SRL, la Besani, la Tessitura Attilio Imperiali, la Zip GFD, l'Ital Denim e Miroglio. Aurora Magni di Sustainability Lab, che è la società di consulenza che ha accompagnato le aziende appunto per partecipare a questo progetto, è qui con noi. Buonasera Magni. Buonasera. Ci sono però delle difficoltà da parte delle aziende nel partecipare a questo progetto. Sicuramente la scelta di sottoscrivere un impegno importante come detox non è una scelta facile per un'azienda tessile. Vuol dire disporre di una rete di fornitori che condividono lo stesso obiettivo, fornitori che sono produttori di sostanze chimiche oppure terzisti, cioè imprese a cui l'azienda delega lo svolgimento di step produttivi specifici, soprattutto nell'ambito tintoriale dei finissaggi. E poiché la subfornitura nel sistema della moda è articolata e spesso delocalizzata, assicurarsi che tutti i fornitori garantiscono il non utilizzo di quelle sostanze richiede un grande lavoro. Le sostanze di cui si parla sono già note per la loro pericolosità da tempo anche all'Unione Europea, che infatti attraverso il regolamento REACH ha indicato misure fortemente restrittive sul loro utilizzo. Ora, molte aziende temono che eliminando del tutto queste sostanze non possano poi essere in grado di realizzare i propri processi di lavorazione. Occorre infatti tenere presente che alcune sostanze servono come intermediatori per consentire poi reazioni chimiche di altri composti, altre invece hanno la funzione di rendere i materiali funzionalizzati, cioè attribuiscono miglioramenti, funzioni particolari al tessuto. E quali sono queste sostanze tossiche? Tra le sostanze da eliminare ci sono ad esempio coloranti azoici, ci sono gli ftalati, sostanze queste che servono a rendere più flessibili la gomma, il PVC, la finta pelle, certe stampe plastificate. Ci sono poi sostanze antifiamma e altre che vengono utilizzate per rendere un tessuto antimuffa oppure antibatterico, eliminando quindi l'effetto sgradevole dell'odore del sudore, per esempio. Noi consumatori siamo molto abituati ormai ad apprezzare gli effetti di questi materiali e sia il mondo della ricerca che l'industria chimica, consapevoli della pericolosità di queste sostanze, stanno facendo molto lavoro per arrivare a delle alternative. Devo però dire che non tutte queste sostanze sono facilmente sostituibili. Per farvi un esempio, pensiamo ai composti perfluorocloruri, più famosi come PFC, che sono quelle sostanze che rendono un tessuto impermeabile antimacchia, quindi molto utilizzate ad esempio in ambiente sportivo, nell'abbigliamento antipioggia, eccetera. Ecco, considerate che alcuni importanti brand dello sport si sono impegnati ad eliminarle entro il 2020. Questo significa che per quanto si stia lavorando, la soluzione non è così immediata. Lo stesso vale per le tracce di metalli pesanti come mercurio, piombo e cromo, che purtroppo si riscontrano nelle acque di processo e ahimè spesso nei capi di abbigliamento di calzature che derivano da coloranti, da pigmenti, anche queste frutto di processi tecnologici a volte delocalizzati molto complessi e quindi un nemico difficile da abbattere. Io vedo una situazione in movimento matura sia nel mondo tessile che nel mondo della chimica per migliorare effettivamente la situazione, soprattutto un'industria europea della moda e della chimica seriamente interessata a migliorare non solo le performance qualitative ma anche il grado di sicurezza dei prodotti tessili che vengono poi messi sul mercato. Aurora Magni, grazie. Questi temi delle tecnologie implicate nei tessuti dobbiamo assolutamente riprenderli, perché i tessuti sono qualcosa, insomma, che ci circonda nel senso più letterale del termine, quindi ci torneremo nelle prossime puntate. Grazie Aurora Magni per essere stata con noi. Buonasera a voi. E adesso noi passiamo a una di queste aziende, la Miroglio Textile SPA. Abbiamo intervistato Andrea Ferrero, che è l'amministratore delegato. Noi crediamo che la competitività con certi paesi debba essere sviluppata attraverso lo sviluppo tecnologico e la ricerca, nel senso che non possiamo di certo pensare di competere sul costo della manodopera con paesi che fanno del basso costo della manodopera il punto vincente, o non possiamo certamente pensare di non seguire le leggi della nazione in cui viviamo, scaricando in maniera selvaggia nei fiumi, nell'atmosfera, gli scarichi nocivi delle nostre aziende. Per cui abbiamo scelto la strada dell'investimento tecnologico. In anni in cui al tessile non credeva più nessuno, la famiglia Miroglio ha investito nello sviluppo tecnologico decine di milioni di euro. Questi milioni di euro investiti nel campo della tecnologia hanno permesso di elaborare delle nuove procedure di stampa, perché di questo stiamo parlando, che rispetto alle procedure di stampa tradizionali hanno un impatto sul consumo di acqua che arriva a essere dal 50-60%, con degli sviluppi tecnologici ulteriori che potrebbero portare addirittura al 90% di consumo di acqua in meno. Consumano meno sostanze chimiche, soprattutto quelle legate alla reazione di aggrappamento del colore sul tessuto, stimato intorno al 50% in meno, e anche più o meno una quota equivalente di energia, a parità di prestazioni, nel senso che la stampa inkjet, soprattutto con l'evoluzione tecnologica che abbiamo studiato in partnership con aziende italiane, permette di avere delle rese al metro paragonabili con quella della stampa tradizionale a rotativa. Ecco, andiamo un po' nel particolare. La stampa tradizionale stampava colore sui tessuti con un procedimento analogo a quello della rotativa per i quotidiani, cioè un rullo che girava, e però con una grande quantità, no, di colore. Si colorava, ma moltissimo si buttava via. In che modo è cambiato? Cioè, qual è la differenza del vostro procedimento? Beh, in gran parte l'ha già detto lei, nel senso che la stampa rotativa di tipo tradizionale prevede uno spreco, o meglio, un uso eccessivo di prodotti chimici, che possono essere i coloranti o, ripeto, come ho detto prima, anche tutti gli ausiliari chimici che servono per far sì che il colore poi prenda in maniera corretta sul tessuto. Nel caso della stampa inkjet, che non è nient'altro che il sistema della fotocopiatrice, c'è un ugello che spara una quantità di materiale che è esattamente quella che serve per far sì che il colore, che il disegno prenda i colori voluti. In collaborazione con un'azienda italiana abbiamo sviluppato una tecnologia che ci permette di avere con la stampa inkjet delle rese che sono paragonabili a quella della stampa rotativa. Arriviamo a stampare dai 3 ai 5.000 metri ora di tessuto con la tecnologia inkjet, e per certi versi addirittura dal punto di vista tecnologico permette di avere delle definizioni che sono più alte rispetto a quelle della stampa di tipo tradizionale, perché ha una precisione di stampa veramente impressionante. Questo fa sì che comunque il consumo di energia, il consumo di materiali chimici, il consumo di ausiliari chimici sia ridotto in maniera importante. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, ascoltatori, aprite bene le orecchie. Nessuno più ha cantato come lei, come la Callas. Eccezionale. Inconfondibile. Che gorgheggi, La Tosca questa. Aspetta che arrivano tutti. Unica. Sapresti dirmi anche cosa si stanno dicendo? Sembreremmo una lite, o ma no? In realtà non saprei. Comunque erano dei gibboni, questa è cioè una certezza. E adesso andiamo da una ricercatrice italiana che si trova all'estero, Lucia Carbone. Adesso la presentiamo. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Benvenuta, intanto le facciamo i complimenti perché in questo mese lei, la sua ricerca soprattutto, eravate sulla copertina di Nature, quindi il fatto che sia italiana, noi siamo molto orgogliosi, abbiamo voluto invitarla in trasmissione per farci raccontare questa particolarità dei gibboni. Allora, intanto lei fa la genetista presso l'Università di Sanità e Scienza di Oregon, a Portland, negli Stati Uniti. Lei si trova lì, è genetista perché ha studiato il DNA, che è veramente unico e particolare di questa specie animale. Non so se lei è d'accordo, io comincerei con l'introdurre che cosa sono, chi sono i gibboni. Sì, i gibboni sono delle scimmie che in inglese vengono chiamate small apes, sono più piccole delle scimmie africane, scimpanzé, orangotango, gorilla e anche l'uomo. E sono particolari perché appunto perché hanno queste caratteristiche, come per esempio il cantare, e anche il fatto che riescono a muoversi nelle foreste con semplicemente usando le braccia. Vengono chiamati brachiators, nel senso che usano soltanto le braccia il 90% delle volte per muoversi nelle foreste. Cioè si lanciano da ramo a ramo, non toccano terra? Sì, si lanciano da ramo a ramo, molte specie utilizzano, altre specie di primati utilizzano anche la coda per fare questi movimenti, ma loro no, non hanno la coda, e utilizzano semplicemente le braccia, quindi hanno queste braccia fortissime e delle modificazioni anche nelle spalle e nei polsi per poter fare questi grossi spostamenti. Ecco, allora andiamo con ordine, perché è una specie che ha diverse particolarità. La prima ve l'ho fatta sentire, insomma, sono canterini, gibboni canterini. Intanto che cosa si dicono, parlando seriamente, qual è la funzione di questi suoni che emettono? Intanto li emettono i maschi, le femmine, i piccoli? E poi sono diversissimi uno dall'altro. Sì, sì. Dunque, la funzione principale dei suoni che emettono è di marcare il territorio. Quindi, mentre loro si spostano nel loro territorio, cantando delimitano, diciamo, i limiti del territorio. I suoni vengono emessi sia dai maschi che dalle femmine, però sono diversi, sono dei duetti, e quando ci sono i piccoli, anche i piccoli cantano con i genitori. Una particolarità è che i maschi, che sono immaturi dal punto di vista sessuale, che non hanno raggiunto la maturità sessuale, cantano come le femmine praticamente. E sono anche molto diversi da specie in specie, infatti i canti sono stati utilizzati in passato per cercare di riconoscere le specie, le differenti specie di gibbone. E sono molto utili, visto che queste sono specie molto rare che sono in via di estinzione, adesso sono molto utili per poter cercare di contare il numero di individui che sono presenti in una foresta e cercare di fare una specie di censimento. Cioè hanno dei veri e propri dialetti, insomma, che si comprende esattamente a quale popolazione, a quale specie appartengano. Sì, esatto. Ovviamente gli esperti riescono ad individuare le diverse specie e io penso che la gente che è nelle foreste, che fa questo lavoro di contare gli individui, che segue le varie famiglie che si spostano, è in grado di riconoscere addirittura gli individui dal punto di vista della singola famiglia. Ah, addirittura. Sì. Sentiamone un altro, un'altra vocalizzazione che abbiamo raccolto. Uno sta imitando una gallina. Una trombetta. No, in realtà è molto diverso da quello che abbiamo sentito all'inizio. È proprio completamente diverso. Ma qui sono in tre, non è, dico, eh? Sono interazioni senz'altro. Non credo che abbiano una doppia vocalità. Ma senta, è vero che queste tecniche di vocalizzazione in realtà sono molto simili a quelle di noi umani, soprattutto degli umani, come dire, soprani, quelli che proprio cantano per professione? Sì, probabilmente sì. L'altra cosa interessante è che i gibboni hanno sviluppato una gola particolare per poter emettere questi suoni. C'è una specie, in particolare il siamang, che quando canta gonfia questa gola. Si vedono delle immagini spesso di foto di questo di questa specie per poter emettere questi suoni così forti, perché poi la funzione del suono è di trasmetterlo il più lontano possibile per praticamente spaventare i possibili predatori o le altre famiglie, gli altri gruppi, quindi può andare oltre 2 miglia di distanza. Ecco, bene. Allora adesso veniamo invece alla sua ricerca. Lei è genetista, ha studiato il DNA, abbiamo detto così, un po' speciale, peculiare di questi gibboni. Ce ne racconti? Sì, il progetto è un progetto che è durato 2 anni e mezzo ed è sul genoma del gibbone, quindi sulla tutto il materiale genetico di questa specie. Che è stato sequenziato qui in America e noi abbiamo cercato di studiarlo e di capire cosa potremmo imparare da questa sequenza. La caratteristica fondamentale del DNA dei gibboni è il fatto che i loro cromosomi sono molto diversi da quelli delle altre scimmie, che anche da un punto di vista evolutivo sono comunque simili, e quindi questa è una caratteristica che personalmente a me ha sempre interessato tantissimo, quindi io sono 10 anni che studio questa particolare caratteristica del DNA dei gibboni. Quindi quello che abbiamo cercato di fare in questo lavoro è capire perché ci sono tutte queste differenze dal punto di vista strutturale tra i cromosomi dei gibboni e quello delle altre scimmie, incluso dell'uomo. Abbiamo creato un modello, diciamo un'ipotesi, in cui descriviamo il perché pensiamo che ci siano stati questi cambiamenti nel corso dell'evoluzione del gibbone in particolare, e perché soltanto nel gibbone. Ecco, perché? Dunque, quello che abbiamo scoperto è che alcuni geni che sono responsabili per fare in modo che i cromosomi si dividano in maniera corretta durante divisioni cellulari, quindi è un processo che si chiama segregazione dei cromosomi, questi geni nel gibbone sono stati leggermente mutati, e questo può causare maggiore frequenza di errori durante questo processo di divisione dei cromosomi. Come conseguenza abbiamo anche dei cambiamenti strutturali dei cromosomi dovuti a questi errori. E la cosa interessante è che queste mutazioni sono specifiche del gibbone, perché sono legate a un elemento che si chiama LAVA, che è comparso soltanto nel genoma del gibbone. Per questo isolamento si è inserito in questi geni e ha praticamente, li ha praticamente mutati, ha creato delle mutazioni in questi geni in particolare. Ecco, senza entrare troppo nello specifico, la cosa che vorremmo capire è, questa è una buona notizia per il gibbone, cioè il fatto che abbia queste mutazioni, queste così, sue, tra virgolette, diciamo, errori genetici all'interno del DNA molto specifiche per la specie, è una buona notizia, cioè in qualche modo ha permesso, come dire, l'evoluzione del gibbone, o è una cattiva notizia per cui, non so, ci sono delle conseguenze drammatiche? Quello che possiamo dire è che qualsiasi cosa noi vediamo dopo milioni di anni di evoluzione è stata selezionata perché o non ha causato nessun problema oppure ha portato dei vantaggi alla specie, altrimenti la specie si sarebbe estinta o non avremmo visto questi effetti. Quindi la nostra ipotesi è che l'aumento di questi riarrangiamenti cromosomici, di questi, diciamo, errori, è stata in qualche modo aiutato la specie ad evolversi, probabilmente perché aveva bisogno di più variabilità nel genoma per adattarsi a delle condizioni ambientali che stavano cambiando molto velocemente. Quando ci sono questi cambiamenti che sono molto rapidi e drastici nell'ambiente, una specie o si estingue o riesce ad adattarsi, e l'aumento di variabilità genetica aiuta questo processo di adattamento. E quindi pensiamo che probabilmente questo sia successo nel caso del gibbone. Sia una buona notizia in realtà. E può esserci un collegamento tra appunto questo DNA così particolare e il fatto che siano gli unici o i pochi primati che si muovano in maniera così specifica, cioè solo sulle braccia, senza l'utilizzo della coda e così via? Sì, quello che abbiamo trovato è che ci sono alcuni geni che probabilmente sono collegati a queste loro caratteristiche, che sono andati incontro a un tipo di evoluzione diverso da quello che vediamo negli altri primati. E il gene, uno dei geni più interessanti, secondo me, è il gene per il collagen, che è la proteina che praticamente è parte dei tendini, e quindi l'idea che il gibbone abbia un collagene leggermente diverso da quello degli altri primati ha senso, perché i tendini sono molto più forti e devono sopportare delle forze molto più grandi di altre specie. Vabbè, certo, perché questo animale praticamente è sempre in volo e ogni volta, come dire, ha la forza del suo peso, e poi è tutto sulle c'è anche braccia, il lancio, insomma, sulle braccia, è fondamentale, insomma, sì, infatti, questo ruolo. Sì, infatti se si vedono foto dei gibboni, prima di tutto la lunghezza delle braccia è sproporzionata rispetto al resto del corpo, e poi le avambracci sono estremamente più larghi, sono anche quelli sproporzionati. Dove potremmo vedere un gibbone in natura? In natura si trovano in Thailandia, in Vietnam, in Cina, in Indonesia. Quindi in Asia, sempre di meno, foreste tropicali. Sì, vivono nel sud-est asiatico e nelle foreste tropicali in alto, quindi bisogna guardare su, perché loro si nutrono delle foglie e dei frutti che si trovano nelle foreste tropicali, hanno trovato la loro nicchia, diciamo, su in alto nelle foreste tropicali. Grazie davvero Carbone, buona ricerca, ancora complimenti per la copertina di Nature. Cosa facciamo? Salutiamo gli ascoltatori con un canto. Una gibbonata. Questi sono i gibboni italiani, territorio Veneto, stanno dicendo coda 3 km sulla 4 all'altezza di Eco Bubu, vuol dire Desenzano. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Devo dire in effetti che questa domanda è arrivata in ritardo e ce l'aspettavamo e non l'avevamo mai fatta nessuno. E ad estato anche curiosità in redazione, in regia, insomma tutti attendono la risposta. Dobbiamo saperlo. Tu lo soffri? Un pochino, sì. Solletico, intendiamo, ecco. Allora, diamo la parola a Walter. Mi chiamo Walter, la mia domanda è la seguente. Vorrei sapere come mai quando mi fanno solletico lo soffro, se invece sono io a farmelo non lo soffro. Come mai? Grazie per la risposta. Ecco, essendo Walter in orbita, se potesse farsi del solletico ridere un po', sarebbe allora, più agevole. La prossima volta che ci mandate gli audio delle domande, spegnete l'auto. Dove diavolo l'ha registrato? Però il problema è grosso. Veniamo al sodo. Allora, andiamo ovviamente da un esperto, Francesco Pavani. Buonasera, benvenuto. Buonasera Pavani. Lei è del Centro Mente e Cervello dell'Università di Trento e chi più di lei può svelare l'arcano? Allora, questo è un arcano antico, nel senso che era un arcano che aveva già affrontato Darwin e che ha avuto molti studi successivi, insomma, perché effettivamente tutti possiamo fare questo tipo di esperienza e accorgerci che in effetti non riusciamo a farci il solletico da soli. Perché non riusciamo a farci il solletico da soli? Darwin aveva pensato che fosse perché non sapevamo esattamente dove ci stavamo facendo il solletico, ma in realtà non è così, perché potremmo concentrarci esattamente su un punto e scoprire dove è che ci facciamo il solletico. In realtà la risposta sembra essere legata al fatto che non riusciamo a prevedere esattamente quelle che saranno le conseguenze. Noi riusciamo a prevedere esattamente le conseguenze delle nostre azioni e quindi anche queste esperienze tattili che arrivano sulla nostra cute in qualche modo vengono cancellate da questa predizione. Cioè le dice l'effetto sorpresa, se ce lo fa qualcun altro non sappiamo che cosa ci aspetta e quindi reagiamo in questa maniera. Beh, ma aspetta, esatto, questa è la domanda, ma no, ma mi scusi, sono le ditine che velocissime si muovono sul collo, per esempio, del bambino. Ma lì vuol dire che non ci aspettiamo, ma sono robe di microsecondi, basta quello. Infatti, è esattamente questo, bravi. Il punto è non tanto aspettarsi o non aspettarsi, perché uno potrebbe dire pronto, uno, due, tre, ti faccio il solletico, no? E uno non ride più. Aspettarsi, no? Prevedendo in qualche modo istante per istante, online, quando arriverà il ditino in quel punto. E il ditino in quel punto, esattamente. Se me lo faccio da solo, so esattamente muovere facendo, e quindi non rido. Esatto, non rido, ma non perché in qualche modo riesco a controllarmi. Le ricerche di neuroscienze cognitive su questo hanno dimostrato proprio che le sensazioni tattili evocate da questo tocco del solletico, che sono sensazioni diciamo non solo tattili, sono anche affettive, hanno ovviamente un aspetto anche piacevole nel solletico, sì. Non voglio farmelo fare, però poi è divertente, no? Sì, si ride, sensazioni insomma, tattili vengono di fatto cancellate quando o largamente ridotte quando noi ce lo facciamo da soli, ecco. E perché però alcune persone sì e alcune persone no? Cioè almeno più, molto di più, molto di meno. Ci sono alcuni proprio che non... Beh, io ad esempio non lo soffro. Ma questa vabbè, è un caso umano. Una domanda interessante, non solo se in relazione a quanto le persone in qualche modo sono in grado di controllare la loro relazione al solletico o quanto il solletico fatto da altri sia per loro così piacevole o particolarmente disturbante. La cosa interessante è perché alcune persone invece riescono a farsi il solletico da soli. Pensa tu. Esistono popolazioni cliniche, per esempio è stato dimostrato in persone con schizofrenia che soffrono di allucinazioni e hanno una in qualche modo questo senso che sono fuori dal loro controllo le azioni che accadono, le voci che sono nella loro testa senza controllo. Queste persone riescono a farsi il solletico da soli. E perché riescono a farsi il solletico da soli? Beh, l'idea molto interessante che è stata proposta da uno scienziato inglese che si chiama Chris Frith è che riescano a farsi il solletico da soli perché in qualche modo proprio questo meccanismo predittivo che segue all'intenzione della loro azione, cioè loro vogliono farsi il solletico, cominciano a farsi il solletico, ma non riescono a predire esattamente che cosa sarà di questa azione, cioè quali ne saranno le conseguenze, no? Diversamente da quello che accade a noi tutti. Quindi, di conseguenza, è un po' come se fosse una mano esterna che gli sta facendo solletico. Interpretano la propria mano come se fosse una mano esterna, quindi non predicono il risultato. E quindi voi riscontrate questo problema o questa, chiamiamola tra virgolette, capacità solo in presenza di patologie abbastanza complicate, di disagio mentale, oppure ci sono anche delle... signori e signore normalissime che non si auto... solleticano? Questa è una domanda interessante, ma è una domanda aperta, nel senso che uno potrebbe prevedere che tanto più una persona fa fatica a in qualche modo preparare e aspettarsi esattamente le sensazioni tattili che possono derivare dalle proprie azioni, tanto più soffrirà solletico. Il punto è che non è che lo fa consapevolmente o intenzionalmente, ci sono circuiti che al di fuori della nostra consapevolezza sono in grado di svolgere questa predizione, lo fanno molto bene, lo fanno costantemente, e tra parentesi sono gli stessi circuiti alla base dei quali noi riconosciamo il nostro corpo nel momento in cui agiamo nello spazio e abbiamo un senso di appartenenza, che so, per la nostra mano che agisce nello spazio, più che per la mano di un altro che agisce nello spazio. Cioè questo aspetto che qui è, come dire, discusso in relazione al solletico, è in realtà molto, molto importante, ha a che vedere con il nostro prevedere che nel momento in cui abbiamo sensazioni tattili sul nostro corpo o interagiamo con un oggetto esterno, gli artefici di quell'azione siamo noi, e quindi in quella parte del corpo che stiamo muovendo è la nostra. Cioè questo ha molto a che fare anche con la capacità che abbiamo come esseri umani di distinguere noi dagli altri, e quindi fare una distinzione fra il nostro corpo che agisce, le sensazioni certo. che ne possiamo ricavare, e quello che accade esternamente. Certo, certo, perché la risposta che lei ci ha dato anche prima all'inizio, insomma, definisce un meccanismo complesso, insomma, e quindi possono entrare in gioco questi fattori. E tra i casi eccezionali c'è anche il contrario, cioè colui che appena lo sfiori invece impazzisce, ride e così via, insomma, senza entrare nei casi clinici, ecco. Beh, sì, di fatto è un po' l'esperienza che tutti abbiamo di chi soffre più o meno il solletico. Di fatto è uno stimolo molto particolare, che appunto è anche uno stimolo con una componente affettiva, rispetto alla quale si può reagire con piacevolezza, o si può reagire ovviamente cercando di evitarlo. Riusciamo a mettere in atto meccanismi di controllo per cui possiamo cercare di controllare questa sensazione noi stessi, cercando di non prestarci attenzione, cercando di per esempio concentrarsi su un'altra parte del corpo, eccetera, oppure no, come tutti gli stimoli che provengono dall'ambiente esterno, come dire, in alcuni casi siamo più in grado di tenerli sotto controllo e non lasciarci guidare da essi, e in altri casi invece si prendono il possesso di noi e non possiamo farci nulla. Va bene, grazie Pavani, buon lavoro davvero. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Beh, ma non è male, dai, finire col solletico. No, non è male, mi dispiace sempre finire, però vabbè, insomma, ci risentiamo tra 7 giorni. 7 giorni, buona settimana a tutti. E a tutte.